emarginati, mantenuti, nessuna voglia di seguire il branco in una logica senza scampo. Che ci rendono fieri, non tentate di fermare.